il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La contraffazione pesa per oltre 1 miliardo di euro anche nel settore dell'agroalimentare e quasi 7 miliardi nel suo complesso. Pare che nel solo Veneto questo significhi circa 10.000 posti di lavoro in meno. Ecco perché, in particolar modo, le associazioni di categoria coinvolte un po' da questo fenomeno stanno cercando di combatterlo non solo attraverso i metodi tradizionali, ma anche cercando di far capire alle persone, ai consumatori, quello che significa comprare un prodotto contraffatto. Per questo è stato realizzato addirittura uno spettacolo che girerà nei prossimi mesi per il Veneto e poi probabilmente anche nelle altre regioni d'Italia, ma proprio a partire dal Veneto, che è stato di recente presentato al Teatro Goldoni di Venezia. E abbiamo oggi con noi, per parlare di questo spettacolo, Tiziana Di Masi, attrice teatrale, in particolar modo di teatro civile, e gli spettacoli d'impegno su tematiche che coinvolgono la legalità. Benvenuta Tiziana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto, che cos'è questo spettacolo? È uno spettacolo dove ci sei tu che racconti un po' questa situazione. Certamente, è un monologo teatrale che però prevede interazioni con il pubblico e coinvolgimento in prima persona del pubblico, e dove appunto il pubblico è chiamato a non solo ad ascoltare che cosa vuol dire contraffazione in tutti i suoi ambiti, ma anche a essere testimone di questo processo di consapevolezza. Viene chiamato sul palco, praticamente analizza una scarpa falso made in Italy con una scarpa invece a confronto, una scarpa autentica, un olio di ottima qualità confrontato invece ad un olio contraffatto. Insomma, questo per renderlo consapevole di tutti gli ambiti nel quale la contraffazione è prospera, dall'agroalimentare alla moda, ai pezzi di ricambio delle auto, ai farmaceutici, ai giocattoli. Insomma, un mondo ormai tarocco. Un po' quasi tutto può essere contraffatto, purtroppo, al giorno d'oggi. Infatti. Com'è nata l'idea di questo spettacolo? L'idea di questo spettacolo nasce come naturale continuazione del precedente spettacolo con cui siamo in giro da 3 anni, che è Mafia in Pentola, che raccontava la storia delle cooperative di libera terra che sorgono sui terreni confiscati alle mafie. Certo. In questo spettacolo l'obiettivo mio e dell'autore Andrea Guolo era proprio quello di analizzare la contraffazione come elemento fortemente negativo per la salute dei consumatori, per l'economia, come un danno per lo Stato, un crimine contro la società civile e anche un furto per le imprese che vengono colpite, e analizzare in particolar modo il legame fra il mercato del falso e la criminalità organizzata, legame che spesso non viene percepito e si pensa che acquistare una borsa contraffatta non faccia poi tanto male, anzi dei due si dà quasi un aiuto, no, al Vucumpra. In verità quel Vucumpra è solo una vittima di una filiera negativa della contraffazione, quindi è l'ultimo anello di questa catena, quindi noi comprando la borsa falsa non solo non lo aiutiamo, ma andiamo ad ingrossare le casse della criminalità organizzata che gestisce la contraffazione. Certo. Il progetto nasce finanziato dalla Regione Veneto, l'assessorato all'agricoltura e tutela del consumatore e del tavolo di concertazione del sistema Moda Veneto, per cui un progetto che nasce proprio grazie alla Regione Veneto e a queste altre realtà, e ha avuto sin da quando è nato moltissimi patrocini e appoggi. Per cui è stata anche una grande soddisfazione riuscire a mettere insieme tante realtà diverse, ma tutte incentrate ad un solo obiettivo, quello di diffondere cultura di legalità. Per cui accanto alla Regione Veneto abbiamo ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ARCI, Agenzia delle Dogane, Indicam, Confartigianato, CNA, COP, Libera, CGL, Confesercenti, insomma c'è una lista di grandi realtà economiche e associative importanti di questo paese impegnate nella lotta alla contraffazione. Forse non abbiamo detto il titolo dello spettacolo. Un titolo inquietante, volutamente, che è Tutto quello che sto per dirvi è falso. Allora, ne parliamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Come sono contento il vino sia di tuo gradimento, che sia arrivata finalmente la notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua. Te ne devo parlare, l'amore è mascalzone, viaggia contromano, parcheggia sempre dove vuole, fa vedere la lingua, parla con la bocca piena, si presenta così senza un invito, proprio in mezzo alla cena. Come sono contento, cosa stiamo a aspettare? Che dici, sarà il caso di ordinare? Domanda, ci siamo mica conosciuti già in una vita precedente o solamente qualche giorno fa, in una vita differente o solamente qualche tempo fa. Vanno a spiegare, l'amore non si spiega, muove le mani in fretta, rovescia il sale e non fa una piega, come un gatto della placa, sono qui a aspettare, io che mi lecco i baffi, tu che continui a mangiare, come sono contento, fuori si sente il mare. Anche se è tutto scuro e non si può vedere, tu mi guardi negli occhi, io non so dove guardarti. Stasera sono un libro aperto, mi puoi leggere fino a tardi. Con la rubrica Il Quadrifoglio, oggi stiamo parlando di uno spettacolo, tutto quello che sto per dirvi è falso, incentrato sulla lotta alla contraffazione. Abbiamo ospite Tiziana Di Masi, la protagonista di questo spettacolo, anche se la protagonista in realtà è la legalità e la lotta appunto alla contraffazione. C'è qualche prodotto la cui contraffazione è particolarmente odiosa? Nel tuo spettacolo so che parli per esempio di qualcosa che ha avuto degli effetti deleteri sui bimbi. Certamente si parla del caso di quel bambino inglese, Archie Bennett, il quale addormentandosi una sera come un normale bambino di pochi mesi sopra il divano si svegliò con la faccia totalmente bruciata, perché quel divano era stato trattato con un potente fungicida. Erano divani che arrivavano dalla Cina ed erano stati acquistati in una catena britannica rispettabilissima. Il problema è che arrivavano appunto dalla Cina e questa sostanza con cui erano stati trattati è altamente nociva. Quindi contraffazione non significa solo portare via dei posti di lavoro, ma significa anche rischi per la salute. Assolutamente, questo, per quanto riguarda i divani, ma nello spettacolo noi parliamo anche dell'inchiesta che appunto ha proprio svolto Andrea Guolo sulle scarpe al cromo esavalente, cioè scarpe che, un esame che è stato effettuato su queste scarpe acquistate in un negozio cinese a Milano, ci riferiamo al 2012, ed erano scarpe che sono state analizzate e in cui sono state riscontrate delle percentuali altissime, esattamente 32,8 milligrammi su chilo di cromo esavalente nel sottopiede, la parte a contatto con la pelle, e il limite tollerato dalla legge è pari a 3, per cui parliamo veramente di una, di un quantitativo esorbitante. Il cromo esavalente è una sostanza nociva che semplicemente provoca dermatiti croniche e infezioni alla pelle. E tanti sono i casi di cronaca in cui appunto noi... Anche nel settore agroalimentare, ad esempio... Nell'agroalimentare parliamo uno dei tanti prodotti, parliamo di olio contraffatto, cioè olio che viene acquistato a 50 centesimi al litro e poi viene trasformato, mandato in raffineria, mischiato ad olie vergine di oliva, non extravergine ovviamente, e poi viene eliminata la puzza e l'acidità di questo pessimo olio grazie alla chimica, e poi un olio viene venduto come olio extravergine di oliva, per cui sono vere e proprie contraffazioni a danno del nostro futuro, della nostra identità, del lavoro, quindi parlando proprio in maniera molto concreta, sono posti di lavoro che vengono sottratti, è un'immagine del nostro lavoro all'estero, perché questo ovviamente crea concorrenza sleale, ed è un'immagine del Made in Italy e del nostro lavoro all'estero che ne risulta totalmente devastata. Per concludere, dove si può vedere lo spettacolo? Quando sono previste queste repliche e magari dove si può avere informazioni? Allora, c'è un sito che abbiamo creato che si chiama www.tuttofalso.org, su cui vengono caricate giornalmente tutte le date previste. Nell'immediato ora saremo appunto in Veneto il 5 di novembre a Pieve di Soligo, poi all'Auditorium Battistella Moccia, poi saremo a Mestre il 7 di novembre, saremo a Milano il 16 novembre all'ambito di Golosaria, un festival enogastronomico molto importante, poi a Roma il 26 di novembre, poi tantissime altre date che adesso memoria non ricordo, no, certo. Ma sono tutte caricate sul sito internet, si può trovare tutto. Tuttofalso.org. Benissimo, grazie Tiziana. A voi, buona giornata, salve. Passiamo adesso alle consuete notizie. Secondo i dati del sistema statistico della regione, nel territorio veneto si movimentano quasi 1 milione di tonnellate l'anno di ortofrutta, di cui la metà proviene da altre realtà italiane. Il saldo è dunque positivo, più di un terzo dei prodotti viene esportato a fronte di un quinto delle importazioni. Anzi, dal 1991 ad oggi le esportazioni di alimentari sono aumentate di 7 volte grazie al vino, alla frutta, alla verdura, ma anche alle paste e alle tipicità lattiero-casearie. La formula bello, buono e ben fatto premia l'economia veneta, sostiene Coldiretti regionale, e su questa via non si può che continuare governando meglio le strutture logistiche esistenti. Siamo infatti la regione crocevia d'Europa che la geografia ci ha consegnato. Nel Veneto l'agricoltura conta oltre 5 miliardi di euro di fatturato e fanno ben sperare i 2.000 giovani agricoltori insediatisi negli ultimi 3 anni. La vendemmia 2013 porterà quantità e qualità. Secondo le stime di Ismea e Unione Italiana Vini, la produzione dovrebbe infatti attestarsi sui 44,5 milioni di ettolitri, l'8% in più rispetto ai 41 milioni indicati dall'Istat per la campagna 2012. I principali progressi saranno al sud, Puglia e Sicilia, ma il primato della produzione rimarrà al Veneto con oltre 8 milioni di ettolitri, nonostante un aumento della produzione meno marcato e stimato in circa il 4%. Restando in tema di vino, sempre più spesso nella nostra regione il vino si accosta all'arte. È quanto propone la cantina Valpolicella Negrar, che da questa settimana aggiunge ai consueti sabato in cantina, appuntamenti mensili con degustazione finale, una mostra sul tema La pietra che si fa parola, uva che si fa vino. Si tratta di una personale di scultura di Raffaella Robustelli, un'artista ravennate ma veronese di adozione, che viene aperta dal prossimo sabato sino al 31 dicembre 2013. È visitabile gratuitamente ma su prenotazione, poiché si snoda in modo originale lungo il percorso di visita della cantina. E per finire un appuntamento si parla di biometano mercoledì 23 ottobre alla Corte Benedettina di Legnaro nel seminario con inizio alle ore 14, prospettive del biometano in Italia e nel Veneto, opportunità mancata o elemento centrale nelle strategie di sviluppo delle rinnovabili. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la trasmissione Il Quadrifoglio. Potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it.